pronto a darvi il benvenuto anche per questa sera, per questa nuova settimana. Hard and Heavy inizia, siamo nella serata di lunedì, replicata il mercoledì. Un saluto a tutti voi dalla voce di Marco Gravelli, siete su Rock FM all'ascolto di Hard and Heavy. Ogni sera dalle 20 alle 21, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Il nostro programma, come sempre, si articola su momenti legati al passato con grossi nomi e magari anche nomi meno noti ma importanti del mondo hard rock e heavy metal, e poi con tantissime novità, le news e le interviste. E domani avremo in effetti nella seconda parte del nostro Hard and Heavy intervista con André Matos, che presenterà il suo nuovo album Time to be Free e suonerà anche due brani in acustico. Ok, detto questo, ci tuffiamo nella serata odierna, che parte con i Britney Fox, band americana di Philadelphia, nata nel 1985 e tuttora in attività. È grazie ad un EP del 1986 che ottengono un contratto con la grossa Columbia Records. L'album d'esordio arriva nell'88 ed ottenne un ottimo successo, tanto da ricevere un disco d'oro in America. Dopo un tour di spalla ai Poison ad aver suonato in Giappone, nel 1989 pubblicano il secondo album, Boys in Heat, le cui vendite furono però inferiori a quelle d'esordio. Segue un tour con Alice Cooper e successivamente, a causa di divergenze musicali, il cantante Davidson lascia la band e il suo posto viene preso da Tommy Parris, che ha esordito nel terzo album Buy Down Hard del 1999, che non ottenne successo, complice l'avvento del grunge. Pertanto la band si scioglie nel 1993 per riunirsi nel 1999 per diverse date dal vivo e registrare un live album. Nel 2003 è uscito il loro quarto e ultimo lavoro in studio. Notizia di una decina di giorni fa è l'ingresso di un nuovo cantante chitarrista, si chiama Jamie Fletcher, con cui registreranno il nuovo lavoro previsto per quest'anno. Dal primo album, quello forse più bello della formazione, andiamo a proporre il brano che lo apriva. L'album si intitolava Britney Fox, si va a scuola, Girl School, pezzo d'apertura nonché singolo di questo lavoro, Britney Fox. We'll be right back. pezzo d'apertura dal primo album della formazione di Brain Winnie Fox, singolo intitolato appunto Girl School, che ci ha permesso di aprire il primo appuntamento di questa sera di Arden Davy, che prosegue con una band australiana, una formazione che ha suonato proprio, anzi suonerà la prossima settimana, il prossimo lunedì 10 di marzo qua a Milano, supporter degli Overkill insieme ai tedeschi Drone. Il gruppo è australiano, precisamente di Sydney, nasce nel 1985 e ha 4 album più un EP alle spalle, l'ultimo è uscito lo scorso anno. Gli unici membri storici ad oggi sono il bassista e soprattutto il cantante Matt Maurer, che ne è anche il cofondatore. L'esordio, dal titolo Miami Destruction, arriva nel 1987, dapprima solo per il mercato australiano, però ottiene un buon successo e viene quindi distribuito in tutto il mondo l'anno seguente. Dopo il secondo album del 1989 c'è da segnalare l'uscita dalla band del cantante Matt, e con una formazione cambiata per 4 quinti si arriva al terzo album del 1991, che non ottiene però i risultati sperati, tanto da portarli allo scioglimento. Sarà nel 1996 che la band si riunisce per 2 anni, durante i quali si autoproducono un EP. E nel 2004 avviene la nuova ennesima reunion con Matt alla voce, alla quale seguono diversi tour e il nuovo album An Absence of Faith, arrivato lo scorso anno. Quindi vi ricordo, lunedì prossimo saranno qua all'Alcatraz di Milano di spalla gli Overkill. Noi andiamo a proporre questo brano dal loro album d'esordio, Miami Destruction. Il pezzo si intitola Women in Leather, Mortal Sin. We'll be right back. thrash metal che arriva dall'Australia, dalla città di Sydney. Non è eccelsa l'incisione, questa è la copia proprio originale australiana del 1987, album intitolato Miamic Destruction, band che suonerà proprio qua a Milano lunedì prossimo. Ritorniamo invece alle cose più recenti. Benedictum è arrivato lo scorso gennaio, il secondo album per questa band americana. L'album si intitola Seasons of Tragedy. La band è fronteggiata dall'avvenente Veronica Freeman, voce femminile, album che aveva il difficile compito di confermare quanto di buono proposto con l'esordio intitolato Uncreation, che aveva riscosso delle ottime recensioni. Questo nuovo lavoro si compone di 10 tracce, una è anche una cover degli Accept dal titolo Balls to the Wall. Oggi andiamo ad ascoltare e a proporvi Within the Solace, da Season of Tragedy, Benedictum. Molto aggressiva, molto potente soprattutto sul palco, la presenza di Veronica Freeman, la voce femminile dei Benedictum, dal loro secondo Season of Tragedy. Andiamo invece a un personaggio molto particolare che è attivo dagli anni 70, chitarrista e cantante, ogni tanto qualcuno me lo richiede ed eccolo qua, lo andiamo a proporre. Lui si chiama Francesco Antonio Marino, metà arabo, metà italiano, conosciuto con il nome di Frank Marino, nome d'arte. Canadese, 53enne, risiede appunto in Canada, ha venduto milioni e milioni di dischi, soprattutto in Canada e in America. quindi ripeto, è attivo dagli anni 70. Lui ha iniziato a suonare la batteria, poi all'età di 13 anni ha cominciato a suonare la chitarra, con secondo me la foto di Jimi Hendrix sotto il cuscino, perché è molto influenzato dal grande Jimi Hendrix. Forma il suo gruppo Mahogany Rush, con il quale nel 73 pubblica il primo album. Nel 2001 gli album pubblicati erano ben 13. Alla fine del 2004 è uscito anche il suo secondo doppio album dal vivo, Real Live, con ben 32 tracce registrate durante il concerto di supporto all'ultimo album in studio, The Eye of the Storm, che era uscito nel 2003. Oggi vi presento questo brano, estratto dall'album The Power of Rock and Roll. È un pezzo abbastanza lungo, quindi lo andiamo a proporre. Si intitola Ain't Dead Yet, Frank Marino. Yeah. album che si intitolava Il potere al rock and roll, The Power of Rock and Roll, pezzo che chiudeva il lavoro Ain't Dead Yet. Lui non è male, eh? Bello tosto come chitarrista, ripeto, magari un po' troppo influenzato da dal grande Jimi Hendrix. Frank Marino nel nostro spazio di Hard and Heavy. Allora chiudiamo la prima parte con una band che suonerà questa settimana in Italia, martedì 4 marzo all'Alcatraz di Milano, 5 marzo Palasport di Pordenone, insieme agli emergenti e bravi inglesi Vile. Sto parlando dei Megadeth, che ricordiamo essere una storica e importante band del thrash metal americana creata da Dave Mustaine nel 1983 dopo essere stato scaricato dai Metallica, gruppo che ha esordito nel 84 con Killing Is My Business and Business Is Good e che ha conosciuto il grande successo con due album, Rust in Peace e Countdown to Extinctions. Sono stati tantissimi cambi di formazione, tanto che oggi Mustaine è l'unico membro originale. Da Rust in Peace, uscito nel 90, che vedeva in formazione oltre a Mustaine il bravo chitarrista Marty Friedman, alla batteria Nick Menza e al basso Dave Ellefson, un super gruppo quindi. Andiamo ad ascoltare, secondo me, un loro classico, cioè Anger 18, Megadeth. seconda parte di Arden Devi per questo primo appuntamento. Siamo nella serata di lunedì. Marco Gravelli con voi con The Street. Questo è il nome della formazione che abbiamo appena ascoltato con le note di Light of Day dall'album The Divine. The Valkyrie, uscito questa settimana per questa band americana composta da 5 elementi, gruppo creato dal cantante e dal chitarrista quando all'epoca avevano 16 anni e che ha esordito nel 1997 con l'album The Miracle Trend. Questo nuovo lavoro è uscito 3 anni di distanza dal precedente. Dall'album dei The Street ad una band che mi fa veramente piacere poter proporre e presentare, una delle più valide band storiche del panorama heavy metal italiano. Sto parlando degli Scanners, precisamente sono di Bolzano, che pubblicano questo loro nuovo The Serial Healer. Il gruppo risale addirittura al 1982. L'esordio arriva nel 1986 con l'album Dirty Armada. 2 anni dopo arriva Picture of War, che gli valse anche un tour di spalla band del calibro di Manowar, Halloween, Ronnie James Dio e Motorhead. Ancora meglio è andato col terzo lavoro, The Magic Square, del 1995, Spalla e Deep Purple, per tutte le loro date italiane. Loro hanno suonato moltissimo anche in Germania, in Austria. E a 5 anni e mezzo dal loro ultimo lavoro esce questo The Serial Healer, registrato presso i celebri New Sin Studios di Loria o Loria, in provincia di Treviso. La band, ricordo, che suonerà in marzo per 3 date: il 7 marzo al Lucille di Verona, il 15 al Midian di Cremona e il 21 al Motorocas di Mozzate, in provincia di Como. Li ascoltiamo con Welcome to Hell, The Scanners. Yeah. Il nuovo lavoro degli Scanners, The Serial Healer, titolo dell'album. Abbiamo ritrovato le note di Welcome to Hell, motivo che è contenuto appunto su questo loro nuovissimo album. Ian Gillan invece è il prossimo protagonista, esce in questi giorni questo doppio CD registrato dal vivo in una località della California, Anaheim, nel locale che nel famoso House of Blues. Il tutto è registrato durante il tour di supporto al suo precedente lavoro solista Gillan's Inn, siamo nel 2006. È un doppio CD, la tracklist spazia da tutti i suoi album solisti e soprattutto ha tanti brani dei Deep Purple, alcuni addirittura che raramente i Deep presentano o propongono dal vivo. Esce sull'etichetta Edel, andiamo ad ascoltare e proporre questa No Laughing in Heaven, Ian Gillan. Yeah. delle grandi voci della storia del rock, Ian Gillan, da questo suo doppio album dal vivo No Laughing in Heaven. Arriviamo con questa canzone anche all'appuntamento consueto ogni sera in Hard and Heavy con le Metal News. Parliamo dei Metal Church, il nuovo album che non si sa ancora quando verrà pubblicato, in che mese perlomeno di quest'anno, però si sa il titolo, sarà This Present Wasteland. Malmsteen ha cambiato il cantante, che novità, direte voi. Dougie White non è più il cantante, al suo posto, pensate un po', c'è Tim Owens, che già ha militato nei Judas Priest e di recente negli Ice the Earth. Con lui registrerà il nuovo album che arriverà a luglio. La curiosità è che Malmsteen suonerà il Gods of Metal nello stesso giorno in cui si esibiranno sia i Judas che gli Ice the Earth, cioè l'ex band di Tim Owens. Parliamo del festival Rockin' Field, che presenta altre band. È il primo festival che la Barley Arts organizza in quel di Adro, il 26 di luglio in provincia di Brescia. Ci saranno gli Epica, anche se attualmente, diciamolo, la cantante Simone Simmons ha veramente seri problemi di salute. Poi ci saranno i Clairvoyants, gli Halloween, i Threshold, Biomechanical, Vision Divine, gli Headliner, saranno gli Avantasia e ci saranno anche vari special guest. Ci sarà di sicuro anche André Matos, me l'ha confessato, suonerà con gli Avantasia in quella giornata e quindi con Tobias Sammet. Continuiamo con Tarja Turunen, 21 maggio Alcatraz di Milano, ecco la data che permetterà all'ex cantante degli Nightwish di esibirsi in Italia. Ripeto, 21 maggio Alcatraz di Milano. Evergrey, reso noto il titolo del prossimo album in studio per la band svedese, sarà Torm, è già stato masterizzato, la tracklist deve ancora essere decisa perché devono valutare quali canzoni saranno incluse come bonus per la limited edition. L'artista americano Rob Zombie ha cominciato a lavorare al prossimo nuovo album in studio, 10 brani sono già pronti, sono stati composti durante il suo ultimo tour, anche se non si sa ancora la data di pubblicazione. Firewind, la band greca del chitarrista Gus G, ha da poco pubblicato il singolo Mercenary Man, che anticipa il nuovo album in studio, che si intitolerà The Premonition. Il singolo contiene anche un altro brano, che andrà a far parte dell'album, e altre due tracce invece che saranno inedite, non faranno parte. Infine è stato registrato anche il video realizzato in Svezia con il celebre regista Patrick Hulehaus. E arriviamo anche a parlare dei Cavalera Conspiracy, realizzato il video del singolo Sanctuary, estratto dall'album d'esordio per i fratelli Cavalera, album che uscirà il 28 di marzo sul Roadrunner Records, si intitolerà Inflicted, ci saranno Max Cavalera voce e chitarra ritmica, Igor Cavalera alla batteria, Mark Rizzo alla chitarra ritmica e leader, e poi John Duplanter al basso. La produzione affidata a Max Cavalera, coprodotto e mixato da Logan Mother. Quindi il pezzo che andiamo ad ascoltare è proprio questo singolo, che si intitola Sanctuary per Cavalera Conspiracy. We'll be right back. Siete all'ascolto di Arden Devi, lo spazio serale con Marco Gravelli su Rock FM dalle 20 alle 21, Cavalera Conspiracy, se la memoria non mi tradisce anche loro faranno parte di uno dei tanti festival estivi, se non sbaglio l'Evolution Festival, che li vedrà protagonisti con questo loro album che abbiamo detto uscirà però nei negozi il 28 di marzo. Invece già fuori questo nuovo lavoro è il secondo album uscito la scorsa settimana, si intitola Le Fall. Per questo gruppo è un quintetto norvegese che si chiama Audrey Horn, il nome deriva dal famoso, da un personaggio diciamo del famoso telefilm Twin Peaks, se vi ricordate, appunto Audrey Horn. Loro fanno parte di formazioni black metal come i Gorgoth, Enslaved oppure i Deride, però quando si riuniscono e portano avanti questo progetto fanno musica completamente differente. Il gruppo nasce nel 2002, dopo tanti concerti incidono un EP che entra nella top 20 delle classifiche norvegesi. Così nel 2005 esce Nohei Banda, che è il titolo del loro primo album, con il quale vincono anche un Grammy Award in Norvegia nella categoria miglior band metal. Li ascoltiamo con questo estratto, si intitola Jones, Audrey Horn. Concludere l'appuntamento di questa sera di Arden Devi dopo gli Audrey Horn con una band che arriva dalla Polonia. Vi ho già presentato alcune tracce da questo album Frozen Circus. Per questa band composta da 5 elementi propongono un metal progressivo con dei passaggi gotici cantato in screamy, altri passaggi più sinfonici con il cantato pulito. Formazione che è nata ben 15 anni fa, il suo esordio avvenne nel 94 con l'album Forgotten Distant Time. Questo ultimo album si intitola Frozen Circus, li ascoltiamo con Unholy Divine, si chiamano Eternal Deformity. Vi lascio con loro e vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto. Ci ritroveremo domani sera 20:21 sempre su Rock FM con Hard and Heavy. Un grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi, un grazie al nostro autore Simone. Buon proseguimento di serata a tutti. Ciao ciao.